Runtime Radio, la radio non solo geek, vi dà il benvenuto. Un saluto per Runtime Radio da Buenos Aires, Argentina, da Rod Tyler. Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E carissimi amici di Runtime Radio, bentornati a Ludico Forum, bentornati ovviamente qui su www.runtimeradio.it. Ci scusiamo leggermente per questo, no, ci scusiamo tantissimo per questo leggero ritardo, ma dovete capire che purtroppo c'è gente che ha un brutto vizio che si chiama lavoro, e uno di questi è Carlo Santa e Agostino. Ciao a tutti, eccomi qua, mi sentite bene? Perché ho un ritorno in cuffia bruttissimo. Sì, sì, sentiamo un po' di schifo, secondo me sei con il microfono del computer piuttosto che con il microfono che dovrebbe essere. No, ho settato il Samsung Gomic, ma mi sa che c'è qualcosa che non va. Comunque, vabbè, dai, vedo di sistemare la questione. Bravo, tu sistema la questione, mentre salutiamo anche Walter Sbano. Buonasera ragazzi, bentrovati qui sul Ludico Forum. Bene, bene, bene, una puntata carica e pregna perché parleremo di un argomento veramente caruccio. C'è anche Francesco Lobby Frontali, che non c'è più perché mi ricordo... Vi giuriamo che c'è. C'è. Mo arriva. Però c'aveva un incompenso e quindi poi arriverà anche Carmine Buccio Console, che giustamente ci sei. Cioè, c'è, lo sento, vai, vai Francesco. Cosa devo dire? Che ciao, buonasera, buonasera, buonanotte, saluto. Buongiorno, dipende da se lo ascoltate anche in differite, in altri periodi della giornata. In altri periodi dell'anno anche un po'. Anche periodi dell'anno. E da altri piani spazio-temporali, perché no? Ma sì, ma diciamo anche altri pianeti, poi? Va bene ragazzi, allora questa puntata si intitola Nerd Evoluzione di un insulto. È una puntata, diciamo, nerd ci stai. Tra l'altro, sì, sempre. È una puntata che è venuta in mente a Carlo, di cui, cioè, con il quale abbiamo, insomma, quando si faceva questa pre-bozza di piano editoriale, dice ci sarebbe anche questo argomento. Io ho preparato la puntata, poi come fanno quelli che non sanno, insomma, giustamente me ne sono lavato le mani. Quindi Carlo condurrà un po', diciamo, la discussione, presentando un po' la questione su quello che è il termine e anche quello che è essere stati nerd. Poi ognuno di noi ovviamente integrerà anche con aspetti legati magari alle proprie esperienze, alle proprie concezioni, e Francesco sicuramente poi aggiungerà anche altri elementi più scientifici, tra virgolette, insomma. Quindi tra virgolette, quindi vedete che sennò la puntata sarà abbastanza interessante. Però come sempre ragazzi, c'è l'intro, mi devo fare l'intro, perché uno, perché le prepariamo, e due, perché Leo Varghion è sempre bravo. Sei un nerd. Questa semplice esclamazione ha avuto diverse declinazioni e inflessioni durante 40 anni di storia lunga e travagliata. Dal disprezzo al disappunto, dal tono emarginante a quello tollerante, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, dove la parola stessa, nerd, ha trovato anche ulteriori sinonimi e viene considerato quasi un complimento, se non una classificazione positiva. In questo episodio di Ludico Forum cercheremo di capire in che modo si è evoluta una parola che ha segnato generazioni di persone e un'intera epoca. Bene, bene, bene. Dunque, questo è un po' il tema della puntata, e dove, insomma, andremo a cercare di sviscerare un po' questa questione. Io faccio una premessa mia personale. Io devo dire che, pur avendo frequentato molti ambienti nerd, io stesso essere stato appassionato di determinate cose, non mi sono mai considerato e so di non essere mai stato considerato un nerd per certi versi. Quindi questo è un aspetto che un po' mi coinvolge, un po' no, però insomma è una situazione che comunque mi interessa, mi è sempre interessata. Quindi partiamo da Carlo. Innanzitutto perché sei, cioè nel senso, hai posto l'attenzione su questa cosa? Innanzitutto mi sentite bene adesso? Adesso ci sentiamo benissimo. Perfetto, il microfono è andato a posto. E perché? Perché è una storia molto interessante, se vogliamo, e che coinvolge in maniera molto diretta sia quello che noi facciamo, sia le nostre passioni attuali, e anche quello che spesso raccontiamo in archeologia informatica, cioè del cambiamento che è avvenuto nel mondo che ci circonda dal periodo precedente, diciamo alla fine degli anni 90, e il periodo successivo, quindi il periodo che potremmo chiamare della rivoluzione digitale, o più propriamente, come viene spesso definita, il mondo globalizzato che viviamo in questo momento. E questa parola, questo termine è molto legato, soprattutto il significato che si dà a questo termine è molto legato al cambiamento che è avvenuto nel nostro mondo. Perché è nata questa puntata? Era semplice, perché stavamo discutendo, non so se ti ricordi, proprio sul nome da dare alla trasmissione. Ah, è vero, ci troviamo adesso, l'Ludico Forum. È vero. Perché all'inizio dovevamo chiamarla tipo Nerdology o qualcosa del genere. Nerdoludica. Comunque qualcosa. Nerdoludica. Esatto. Mamma, che pare è brutto forte Nerdoludica. esatto. A parte che era brutto. Comunque ci siamo incaponiti proprio sul significato da dare alla parola nerd, perché tu prima hai detto una frase interessante, hai detto: io non mi sento nerd e credo di non essere mai stato giudicato nerd. Non lo so, credi tu forse, sì, probabilmente sì. Molti invece ti hanno giudicato o ti giudicano un nerd. È abbastanza, prima, è abbastanza probabile, sì. E perché? Perché tutti noi che facciamo questa trasmissione oggi, che siamo qui accomunati comunque da un certo tipo di passioni che indubbiamente vengono definite e sono sempre state definite tra virgolette nerd, ma la vera chiave di lettura di questa frase è proprio il cambio di significato che ha avuto. Tante parole nel tempo cambiano di significato, no? Ce ne sono tantissime. Una delle più famose è cellulare. Non so, cellulare quando io ero piccolo era il camioncino che portava i detenuti, non era il telefono che adesso usiamo, ok? Quindi non è il telefono parola. Che già a sua volta ha cambiato definizione, che adesso si chiama smartphone. Esatto. Oltretutto non lo chiamiamo più neanche cellulare, però diciamo che le parole cambiano nel tempo di significato. La stessa parola può assumere significati diversi. E anche questo è il caso della parola nerd, però questa parola che ha cambiato sì di significato ha, rispetto ad altre, meno consapevolezza nell'opinione pubblica che sia cambiato il significato di questa parola, ma più che significato il valore, ecco, facciamo così, è più giusto parlare di valore che ha questa parola, proprio come nell'incipit, nell'introduzione, nerd è passato da insulto a complimento. Pur definendo più o meno la stessa tipologia di persone. Faccio un breve recap storico della cosa, un'introduzione, mi prenderà un pochino di tempo, spero di non annoiare nessuno, poi dopo inizieremo tutti la discussione su questo termine. Se andiamo a cercare l'etimologia della parola nerd, ci si perde un po' nella notte dei tempi. Allora, innanzitutto definiamo che nerd è una parola nata negli Stati Uniti, quindi arriva, nasce negli Stati Uniti e poi si diffonde da lì verso tutto il mondo. Nasce nell'ambito specifico della cultura universitaria o comunque dell'high school americana. L'etimologia è controversa, non c'è una certezza su come e perché è nato questo termine. C'è comunque un ambito, che è appunto quello universitario e dell'high school americana, e un periodo temporale che è quello, diciamo, intorno agli anni 60, in cui si inizia a diffondere l'uso di questo termine o di piccole varianti, come viene indicato anche in Wikipedia americana. Dicono anche, oltre a nerd, si usava nerd con la U, ma insomma, piccole variazioni del termine, ma diciamo che si andava a utilizzare con un significato ben preciso in America, che era quello di secchione / sfigato, se vogliamo tradurlo in italiano. Una cosa di questo genere, anche perché da noi in Italia, comunque il termine nerd arriva molto tardi, ma non l'identificazione della tipologia di persona che veniva, diciamo, categorizzata con questo termine, perché da noi per anni, poi a seconda della magari zona italiana, poi magari ognuno di noi potrà dare indicazioni su quello che era l'utilizzo di questo termine dalle sue parti, era appunto secchione, cioè quello che a scuola studiava, o sfigato nel senso etimologico proprio di, possiamo tradurlo con senza, diciamo, particolare attrattiva per il genere femminile, insomma poco attraente verso il genere femminile, e comunque una persona che non era certo aitante, o comunque, diciamo, lo sfigato è quello che ho detto. Quindi questo termine, quindi, negli Stati Uniti nasce in questo senso e viene utilizzato in questo senso. Una cosa che molti non sanno è che questo termine in America divenne popolarissimo a partire da circa la metà degli anni 70, grazie a una serie TV molto famosa anche da noi, dove però questa parola non veniva usata nella traduzione italiana, perché non se ne conosceva il significato. E questa serie TV, chi è che lo sa? I ragazzi del computer. No, molto prima, sto parlando alla metà degli anni 70. La Madonna, a metà degli anni 70. E quale poteva essere sta serie? Una serie Happy Days. Che poi è ambientata addirittura 25-30 anni prima, quindi esatto, utilizzava spesso Fonzi questo termine per definire, quando vi ricordate definisce mammoletta, secchione, eccetera. Sì. Ecco, negli Stati Uniti lui diceva nerd. Okay, ma se non ricordo male, Carlo, il termine si nota già in alcuni, non ricordo se libri o fumetti del dottor Seuss degli anni 50, per cui c'erano le tracce di questo termine assolutamente, effettivamente. Assolutamente, sì, c'è scritto su Wikipedia, sì. Esattamente, quello che ho detto, cioè, il problema è che non si è certi della nascita, dell'etimologia, cioè di dove sia realmente nato, però era in uso, ecco, era in uso nell'ambito appunto scolastico universitario, come ho detto, ma viene popolarizzato in tutti gli Stati Uniti dall'enorme successo di Happy Days, e lì diventa proprio il termine standard con cui indicare il secchione sfigato della scuola. Ok? Quindi in quegli anni però succede anche un'altra cosa importante, che è appunto l'inizio, come tutti sappiamo, dell'informatizzazione di massa. A partire dalla metà degli anni 70 inizia appunto la nascita della Apple, la Microsoft, l'Altair, tutte le cose che normalmente raccontiamo in archeologia informatica. Quindi inizia quel lento tra virgolette, velocissimo in realtà è stato, cambiamento del mondo, che è l'informatizzazione di massa e poi la digitalizzazione dell'informazione, e quindi la nascita di internet, la diffusione, fino ad arrivare all'era digitale e alla globalizzazione. Questo cosa provoca? Provoca che partire dalla metà degli anni 70 in poi, dei nuovi governanti del mondo, vogliamo dirla in maniera brutta, cioè iniziano a essere, comunque diventano persone molto influenti, molto ricche, molto potenti, delle persone che sono state o comunque arrivano dalla cultura nerd, quindi dall'essere secchione, dal essere sfigati a scuola, cioè quello che gli piacciono i fumetti, gli piacciono tutta una serie di la classica figura che qualcuno di noi lo è stato, qualcuno no, più o meno comunque la conosciamo bene, e lo stesso Bill Gates era un po' così, se studiate la sua biografia sapete che da giovane era uno che appunto soprattutto all'inizio era uno molto gli piaceva il computer, la tecnologia, qualcosa che non era proprio lo sport, andare a giocare a rugby, insomma le classiche attività del teenager americano. Beh, ma tutti quelli che hanno creato le startup così, della Silicon Valley di quegli anni. Esattamente, bravissimo, esatto, è proprio questo, stava succedendo questo. Enstiak mi viene in mente, piuttosto che, vabbè, Linus Torvald non era americano, non è americano, cioè c'è anche sì, lui nel mondo. Linus è degli anni 90, quindi molto sì, dopo. No, io sto parlando proprio dell'inizio, quindi stiamo parlando della metà degli anni 70 fino alla metà degli anni 80. Tra il 75 e l'85 in Italia nerd nessuno sapeva, non era usato come termine. Quando io ero ragazzo che facevi quello che usava il computer, il Commodore 64, gli piacevano i videogiochi, eri lo sfigato, il secchione o qualche altra parola, un'altra definizione, ma sicuramente non nerd. Non esiste nessuna indicazione fino al circa 1984-85 dell'utilizzo di questo termine in Italia o comunque al di fuori degli Stati Uniti. Da cosa viene popolarizzato questo termine al di fuori degli Stati Uniti? Viene popolarizzato da un film molto famoso di cui tutti noi abbiamo sentito parlare, che è un film del 1984 che si intitola La rivincita dei nerd. Sì. Okay? Questo film nasce proprio, anche il titolo, sentite, La rivincita dei nerd. Arriva nell'84 infatti proprio per celebrare quello che stava succedendo, cioè negli Stati Uniti erano circa 10 anni che i nerd passavano quindi dalla fase di essere i secchioni sfigati eccetera eccetera a qualche cosa che diventava importante, cioè quelli che erano esperti di computer, che amavano la tecnologia, che amavano quel tipo di cultura, erano quelli che iniziavano ad avere in mano le chiavi dell'economia, le chiavi dei soldi, comunque qualcosa che stava variando nell'economia e nella società di quel periodo. E questo film nasce proprio per anche, infatti è ambientato in un college dove studiano computer science, cioè studiano informatica. Questo un po' ne l'abbiamo perso nella traduzione italiana, non si capiva molto, ma era proprio un college di informatica dove questi ragazzi che erano i secchioni e i sfigati che venivano bullizzati prendono e diventa la loro rivincita, la rivincita dei nerd, e quindi è l'inizio della positivizzazione del termine. Ma uscendo dagli Stati Uniti, dove quella cosa era già in atto, in realtà arriva da noi, il film ha molto successo, ma viene preso il termine. Ma viene preso il termine per indicare la parte, giustamente come si vede nel film, l'indicazione negativa, l'accezione negativa, cioè guarda quello lì, lo sfigato, quello che usa i computer e non guarda le ragazze, ok? Cioè quello che non fa sport, quello che gli piacciono i fumetti, che guarda i film di fantascienza, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo da sì, scusami Carlo, non c'era mai la via di mezzo, il contrappasso era sempre il giocatore di football alto, biondo, tipo Big Jim, non c'era veramente mai la via di mezzo. No, la via di mezzo esiste. La via di mezzo esiste nella realtà. Certo. Lì era l'estremizzazione cinematografica, quindi c'era il super figo da una parte e il super sfigato dall'altra. Vabbè, poi è tipico dei film americani andare per stereotipi. È ovvio che la realtà ha tante sfumature. In ogni caso, il significato di nerd indicava quello, però al di fuori del, cioè indicava quello sfigato, non quello certo, figo. Certo. Okay? Quindi anche magari uno che era mezzo e mezzo, nel mezzo sfigato era nerd, ok? Quindi l'indicazione e l'uscita di questo termine dagli Stati Uniti arriva proprio nel 1984 grazie a questo film. Questo poi porta l'inizio anche di una identificazione mondiale di quel tipo, di quella tipologia di persona, ok? Questo per tutta tra la metà degli anni 80 e tutti gli anni 90 rimane più o meno così, soprattutto anche al di fuori degli Stati Uniti, cioè viene indicato con accezione negativa. Il termine in Italia sfigato dicono nerd, ma intendono sfigato, quindi arriva sempre in quella con quella accezione lì. Nel frattempo però la produzione, sia il successo delle persone che si occupano di informatica e quindi quegli ex nerd che erano Wozniak, che erano Jobs e tutti quanti, insomma tutti quelli che si occupavano di quell'ambiente, aumenta, continua ad aumentare. Negli Stati Uniti la produzione televisiva di serie TV, sin da quegli anni, una serie TV che per esempio da noi non ha avuto, è conosciuta ma non è molto conosciuta, vediamo quanti di voi conoscono Family Matters, come è stata tradotta e come si chiamava in italiano. Aspetta, lo so sicuramente, no. Però non voglio andare a guardare, però sicuramente lo so e la conosco, dai, dircelo, però poi... Era poi... Otto sotto un tetto, ok, perfetto. Otto sotto un tetto è una serie che è arrivata anche da noi, ha avuto molto più successo in America che da noi, e c'era un personaggio che all'inizio era un personaggio secondario che poi praticamente diventa il protagonista, che è Stevie. Sono stato io a fare questo? Sei stato... Quindi la conosco. Esatto, gli occhiali rotti ed era pure nero oltretutto, infatti sì, era quella la cosa peggiore. Ma posso dire una cosa? Scusa, finisco un secondo e poi dopo ritorni tu, che poi alla fine, come dicevamo prima, nel sistema, diciamo, di narrazione, no, della televisione, del cinema americano, che si va per stereotipi, no, che poi è un po' quello, cioè Venezia con mandolino napoletano, cioè nel senso per loro quella è l'Italia, no? Nel senso, esatto. E la stessa cosa poi alla fine nella raffigurazione dello sfigato nerd, che poi se tu vai a vedere poi si creava quell'immaginario del tizio con gli occhiali giganteschi, gli straccali, che poi esatto. Rivediamo anche in Day of the Tentacle, no? Cioè, anzi, ancora prima in Maniac Mansion, quindi chiaramente, insomma, quindi alla fine poi diventa uno schema, cioè diventa... diventa lo schema, è uno schema che riflette quella tipologia di personaggio. Ma ti stavo dicendo, il passaggio da visione negativa a visione positiva viene in quegli anni, a partire appunto dal film Revenge of the Nerds dell'84, poi con questa sitcom di Otto sotto un tetto, dove c'è appunto il personaggio molto positivo di Steve, che è lo sfigato, ma poi viene amato, diventa il personaggio positivo della serie, diventa praticamente il protagonista. Sì, anche se io lo trovavo molto fastidioso, cioè proprio quello era stato estremizzato il personaggio, no? Esatto. Tra l'altro ci sono degli episodi in cui lui prende una sorta di pozione creata da lui e diventa un figo della Madonna. Esatto. Si trasforma proprio somaticamente, per cui ti accorgi di quanto in realtà lui si caricaturizzasse appositamente, cioè l'attore faceva un lavoro enorme su quel personaggio, perché penso fosse più realistico quando lo rendevano bello piuttosto che quando faceva lo storto, perché poi era anche secco allampanato un po', insomma. Aveva anche una fisicità tutta particolare, ma come tutti quelli di Big Bang Theory, giusto per dirti una cosa recente, perché con tutto questo che succede da quella serie lì si passa da tante altre serie fino ad arrivare a IT Crowd e fino ad arrivare proprio all'esplosione della positività nerd, che è Big Bang Theory, dove tutto quello che è stato costruito prima diventano i nerd, diventano gli eroi, praticamente i protagonisti positivi, quelli insomma, sdogana completamente sia la tipologia di agire, insomma, cioè non è più, mentre prima magari ti piacevano i fumetti, ma non è che lo facevi vedere, magari te lo tenevi per te, oppure ne parlavi con qualcun altro, eri grande, ti piacevano i fumetti, non andava tanto bene, no? Non so se certo, avete visto. Sì, certo, assolutamente. Adesso invece diventa una cosa da esternare, parlarne positiva, i film più visti sono i Marvel, le cose da fantascienza, fino ad arrivare all'assurdo contrario che abbiamo adesso, dove addirittura siamo proprio, cioè è diventata la produzione di massa, il mercato è diventato addirittura qualcosa che esce addirittura da quello che era prima il circolo di un qualcosa di positivo di circoscritto, e diventa adesso si è spiegato essere nerd, cosa che prima lungi da noi, insomma. Esattamente, e arriviamo alla cultura attuale, dove i ragazzi adesso che hanno 20 anni parlano della cultura nerd, delle cose che a noi magari o che ai ragazzi di 20 anni prima, di 30 anni prima, era considerata qualcosa di negativo, come invece l'attualità, la cosa che piace, la cosa che si fa, eccetera. Mentre sono rimaste anche tutte le altre cose positive, perché non è che nel frattempo gli sport sono diventati negativi o quello che prima era figo è diventato brutto. Sicuramente, e questo è molto positivo, c'è molta più attenzione adesso verso quella che è la bullizzazione, la violenza, eccetera, e questo è sicuramente un aspetto assolutamente positivo rispetto a quanto, non che sia sparita, perché non è no, sparita, no, non è sparita, anzi, poi dopo magari dopo ne parliamo anche. Diciamo che piuttosto che molta più attenzione, la trasformazione secondo me è stata anche nel fatto che non esiste più la grossa contrapposizione, cioè nel senso prima eri nerd o eri lo sportivo, oggi puoi essere il nerd e poi vivere tranquillamente all'interno di un contesto che contempla altre, diciamo, visioni della cosa. Che poi, tra l'altro, se vai a vedere, no, oggi nerd ha ulteriormente poi cambiato forse magari anche un po' il suo significato, perché oggi spesso e volentieri si accosta il termine nerd al fanatico di... Cioè, sei nerd del calcio, sei nerd della cucina. Perché è diventato una definizione positiva e quindi una definizione di non più sfigato o qualcosa, ma di qualcuno che pone esperto, passione, diciamo. Esperto. Più geek a questo punto. Sì, esatto. E poi c'è questa questione, ecco, della suddivisione del termine, che poi è nata pure questa successiva terminologia geek, che poi in realtà poi alla fine è proprio il fico della tecnologia, no? Cazzo, siamo geek noi stessi, siamo la radio geek, quindi cioè, qua te ne sappiamo, insomma. Si è dovuto comunque, però vedi, hai già iniziato quella che è la discussione, io comunque scusa, arrivato alla fine, alla conclusione, quindi comunque arriviamo, okay. Cioè, per me è il termine ultimo di questa trasformazione che avviene, se notate bene il discorso che ho fatto, avviene tutta tramite diffusione di spettacoli televisivi e film. Quindi non meno nella letteratura, se volete, ma più nella espressione moderna dello show di massimo audience, che è quello della televisione e del cinema. Cioè negli ultimi nostri 20 anni 30 anni, quello che esprime la maggior popolarità nella diffusione di un concetto è qualcosa nell'ambito visivo o televisivo. Questo forse, cioè, da 40 anni a questa parte, tutto quello che è sì, l'inserimento degli elementi della cultura pop arriva tramite la televisione, fondamentalmente, a partire da Happy Days stesso, o comunque, no? Cinema, comunque. Sì, sì. A parte prima della nascita di certi media moderni, che possono essere il computer o la televisione dell'epoca pop, eccetera, un concetto come quello del nerd non sarebbe neanche nato, perché non ci sarebbero stati probabilmente quegli stimoli a spingere alcune persone a catalizzarsi verso quelle passioni piuttosto che altre. No, questo non è vero, perché come ho detto prima, questo termine nasce tra la fine degli anni 50 e 60 in America, e nasce come termine, ma per indicare un qualcosa che già c'era, non per indicare qualcosa che era nuovo, cioè okay. Quello che tra virgolette lo sfigato secchione, ok? Quindi, e quello c'è sempre stato. Negli anni 50 era quello che leggeva gli action di Action Comics e leggeva i libri di fantascienza di da noi Urania, se vuoi, ecco, o quello che guardava un certo tipo di cultura, che era una cultura nuova, una cultura che non aveva ancora la dignità di cultura e che molto spesso non ce l'ha ancora adesso in alcuni ambiti, come il videogioco, giusto per tirarne in ballo uno, ma questo poi apriamo un altro cinema di discussione, dove chi aveva la passione di questa cosa era emarginato dal punto di vista della società, a cui piacciono delle altre cose. Cioè, ti piace la gnocca, ti piace il calcio, ok, allora sei normale, ti piacciono i film di fantascienza e magari sei anche gay, buonanotte, cioè sei uno sfigato che non vale niente. Almeno questo fino a 20 anni fa 30 anni fa era così, adesso è cambiato, inizia a cambiare, però certo. Scusa Carlo, c'è in chat David Lightman che dice giustamente: io sono nerd, cioè... ma tutti noi siamo nerd, no, ma lo dice David Lightman. Sì, ma in che DEFCON siamo? Perché se non specifica... Lo so ragazzi, qui è questa cosa della chat che vi piace cambiare i nomi ogni 3 minuti e sappiamo chi è il colpevole, insomma, e, però, prima o poi ve lo impediremo. Non sono io, ma dico okay, prima. È Tomaiuolo. È sempre Tomaiuolo, certo, chiaramente. Anche perché lo vedo, qui c'è un IP dal Belgio. Vabbè, ragazzi, però scusate il doveroso saluto a Girasole. Hai ragione. Salutiamo Girasole. Che poi, tra l'altro, in questa discussione adesso voglio sentire un attimo, magari, il pensiero di Walter e poi quello di Francesco in generale su questa introduzione. No? Poi vorrei anche inserire alcuni aspetti anche nella discussione, perché poi noi abbiamo parlato del discorso terminologico e comportamentale. Però, ecco, come giustamente dice anche Carlo nella parte finale, c'è proprio anche un aspetto di emarginazione, cioè comunque ci sono state comunque questa cosa, l'essere comunque categorizzato, già in generale le categorizzazioni sono quello che sono, cioè in generale, però essere categorizzato nerd probabilmente in un certo periodo della storia ha significato anche sofferenza, comunque problemi alle persone, no? Questo. Vai Walter, intanto fai il tuo commento e poi dopo sentiamo Francesco e poi cominciamo magari a trovare dei punti di discussione. Sentiamo pure in chat se avete magari delle domande, delle osservazioni da fare, noi poi ne discutiamo insieme. Il mio commento è più una sorta di tornare agli anni della mia fanciullezza, in cui conflittualmente, in maniera molto conflittuale, vivevo questa esistenza, questa parte di me che in qualche modo si rispecchiava nell'essere nerd, ma in contrapposizione ad un'altra parte di me che invece aveva tutt'altro tipo di passioni, tutt'altro tipo di stimoli, e che erano due metà che in qualche modo si alternavano a seconda dei periodi. Per esempio, chi di noi non ha avuto la fase della passione per il computer, del Commodore 64, del VIC-20 o quello che fosse in quegli anni lì, e che ovviamente ci farebbe catapultare immediatamente tra i nerd proprio per definizione. Però per esempio negli stessi anni, è vero, sì, mi piaceva molto giocare con il computer, ma poi potendo scegliere io passavo tutti i pomeriggi a giocare a pallone con gli amici al campetto, quindi erano un po', come dire, c'era comunque un dualismo, perché mi riconoscevo in una parte che però mi creava da un punto di vista dell'immaginario stesso una frustrazione, l'idea di essere considerato limitatamente alla passione per il computer, quindi a uno sfigato, poi mi faceva reagire in contrapposizione e mi portava comunque a voler avere anche altri tipi di hobby. Poi ci sono stati periodi della vita in cui mi sono catalizzato più sulle passioni da nerd, sull'informatica, perché per alcuni motivi vari magari avevo meno amici di altri periodi, quindi ero meno portato a stare all'aria aperta, meno portato a fare altri tipi di attività, e quindi mi sono ritrovato più nella fase di quello che leggeva i fumetti, quello che si svegliava alle 3 di notte per guardare Star Trek The Next Generation, quello che smanettava col DOS per fare questa o quell'altra cosa, quindi probabilmente poi da un certo punto in poi ho preso un po' più quella china. Però devo dire, ecco, che mi ha sempre fatto soffrire l'accezione estremamente negativa dell'essere additato, come appunto diceva Carlo, uno sfigato, come un secchione, perché avevo quegli hobby. E di certo secchione non ero, insomma i miei voti lo hanno sempre dimostrato, quindi vedi tu. Non eri secchione, ma eri sfigato per alcuni. Quindi manco, ma l'unica cosa che poteva essere quantomeno positiva, alla fine manco quella. Cioè, diciamo. No, a me studiare non mi è mai piaciuto. Cioè, il computer era una passione, ma la scuola era tutta un'altra cosa. Io posso fare una domanda? No? Tu hai detto giustamente, mi sentivo appunto, cioè magari sfogavo nel calcio, negli altri, proprio perché sentivo questa visione negativa delle passioni che avevo del computer, eccetera, eccetera, no? Quando mi dedicavo a quello. Adesso che invece questa cosa è considerata positiva, come ti senti? Bene o sei incazzato? In realtà non sento un bisogno di riscatto, perché comunque sia, poi diciamo che certi hobby sono diventati in parte anche una professione, quindi sono diventati preponderanti nella mia vita. Però insomma lieto di poter fare un bilancio intermedio, nel senso che poi comunque non mi è mancato nessun aspetto della vita a livello di esperienze, a livello di cose fatte, quindi devo dire questa trasformazione dell'accezione mi fa piacere da un punto di vista generale, ma diciamo non ha avuto un'influenza molto specifica su di me come persona, ecco. Dovresti abbassare un po' il tuo volume, Walter, perché in effetti... Scusami, devo alzarlo, abbassarlo? Abbassarlo, perché abbassarlo. Arrivi un po' sbrachi un pochetto, come l'altro giorno, solo che... si abbassi un pochino. Stavo dicendo che invece io la un pochino, cioè non tanto, adesso non esageriamo, però sicuramente se ci penso un po' di rabbia ce l'ho, perché io ero esattamente la definizione, cioè a me piaceva, cioè il calcio proprio non mai... né saputo giocare né mi è piaciuto, e passavo invece proprio completamente sulla parte fumetti, computer, fantascienza. Però scusa, allora la domanda te la faccio io, no? Perché questo sì. Allora parto dal mio punto di vista, poi voglio sentire Francesco che finora giustamente non ha neanche parlato. Io ho fatto la mia infanzia e la mia adolescenza, l'ho fatta, diciamo, ecco, come ho detto prima, io non mi sono mai considerato un nerd. Non so se mi ci consideravano, di certo non facevo una vita o un'attività tale da, secondo me, da essere considerato un nerd. Io facevo più sport che computer. Se non fosse stato che i computer e i videogiochi avevano un fascino incredibile su di me, in realtà io probabilmente non l'avrei manco mai toccato un computer, cioè nel senso avrei passato più il tempo a giocare a pallone, andare a fare il tacchino con le ragazze piuttosto che stare davanti a un computer. Infatti ho avuto periodi della mia vita in cui giocavo, stavo sui computer come un matto, e stavo periodi in cui non li vedevo proprio, cioè ero molto ambivalente da questo punto di vista, no? Però io penso, se io nella mia vita ho avuto delle passioni, e anche se queste passioni mi hanno magari comportato, mi hanno compromesso alcuni tipi di relazioni sociali, perché io devo essere arrabbiato di questo? In realtà è stata la mia vita, cioè è stato come ero io, non avrei potuto essere diversamente, questo dico, a meno che chiaramente non c'è quello di cui parlavamo prima, l'aspetto della cattiveria della gente nei confronti del tuo modo di essere, e lì però è più un aver subito che un essere arrabbiato per il fatto di essere identificato come X o Y. Questo penso, non so se è chiaro. Il punto è questo. Io dal punto di vista proprio della definizione, io ero esattamente lo stereotipo di nerd, ma proprio preciso, quindi completamente, anche dal punto di vista del secchione, delle passioni, tutto quanto, esattamente quello, ok? Io ho subito ovviamente il bullismo nella mia. L'ho subito, vabbè, è chiaro, tutti questo... quelli che erano fatti come me. Adesso io sono contento dal punto di vista, perché quello che io ero, le mie passioni, quello che io, diciamo, tutto quello che io predicavo, adesso sono la cultura attuale. Quindi da un certo punto di vista sono molto contento di questo, e sono contento anche perché mi ha portato ad avere un ottimo lavoro, cioè non sto assolutamente male economicamente, anzi sto molto bene, e tutto quanto perché proprio per queste passioni che io ho avuto. Ecco, facciamo gli sborroni così, che ci frega, voi siete dei poveracci. Ma cos'è che mi fa un pochino rabbia, ma ce l'ho lì, tra virgolette, come rabbia, quasi come divertimento, però c'è, cioè non posso negare che non ci sia, è il fatto che io ho vissuto in un periodo dove quello che a me piaceva e che facevo mi identificava come lo sfigato, guardalo lì, è sempre attaccato al computer, qualcosa gli piace, che schifo, gli piacciono i fumetti, bla bla bla bla bla. Quando adesso, se vivessi io adesso, in questo momento, guardo mia figlia che ha le stesse identiche mie passioni, lei è super considerata da tutti, dai ragazzi, dalle cose, eccetera, cioè vive una, diciamo, adolescenza molto migliore di quella che ho vissuto io. Ah beh, certo, ma questo perché questi tanto decantati e amati gli anni 80 di cui voi tutti parlate, alla fine erano degli anni di merda rispetto al fatto che oggi i ragazzi sono più sereni da quel punto di vista, e soprattutto negli anni 80 le donne non hanno le tette, questa è una cosa importante. Ma al di là di questo, adesso ritorniamo un attimo, volevo sentire Francesco rispondere a una domanda di Girasole in chat. Lei dice: si può essere nerd senza essere, senza capirci tecnologia informatica. Sì, l'abbiamo detto prima, oggi l'accezione nerd è una, quasi un'accezione che ti definisce addicted di un argomento, cioè nel senso, comunque, diciamo così, tu sei nerd dei te, diciamo così, cioè sei una super nerd del te, quindi alla fine ci sta, insomma, come tipo geek, di cosa. Geek, è una geek dei te. Sì, ma geek, guarda, poi ci arriviamo al, perché geek io poi onestamente non è che so esattamente, cioè, come collocarlo come termine, perché... secondo me, dico la mia brevemente, poi la sua, geek era un termine che era nato nel periodo intermedio, quando nerd non aveva ancora completamente l'accezione positiva che ha oggi. Ok, esatto, e serviva per distinguere, esatto, ok, perfetto. Era, diciamo, era la riscossa, partiva dal termine, diciamo così. Francesco. Allora, innanzitutto vorrei dire una cosa che disse una volta un saggio, cioè che belli gli anni 80, ma però c'hanno rotto il cazzo. Quindi, esatto. C'hanno rotto il cazzo. Cosa, quando l'ho sentito ho detto no, ha indovinato tutto. E comunque, cioè, per quanto riguarda, pure mi allaccio a quello che hai detto, Girasole, comunque essendo, diciamo, all'epoca la cosa più, tra virgolette, non elitare, la cosa più bizzarra occuparsi magari di tecnologie informatiche eccetera eccetera, era riconosciuto in modo stereotipico il nerd, quello che si occupa prevalentemente di sta roba qua, che gioca a D&D, ste robe qua, però assolutamente non preclude neanche all'epoca, tra virgolette, neanche dal punto di vista stereotipico, è rinchiuso solo in quella bolla il nerd, cioè quello che si occupa di informatica, che smanetta, che batte il codice, che gioca a videogiochi. Poi volevo dire un pochino altre cose, a parte il fatto dell'emarginazione, altro, è spesso rappresentato soprattutto nei film americani, dove tipicamente i nerd li prendono, li mettono con la testa nel cesso, gli fanno le smutandate, queste cose qua. E... ma anche, mi ricordo, anche in qualche serie italiana negli anni 80-90 comunque era rappresentata, ora delle reminiscenze, però mi ricordo, ma succedeva, qualcosa... era così, c'era, sì, la realtà, sì. Non è che qualcosa che faceva su Italia 1, non so, comunque dal punto di vista della... I ragazzi della terza C, mi ricordo. Della terza C, sì, infatti, no, delle reminiscenze di quello lì, si è andato proprio a beccare. Beh, c'erano le due secchione, no? C'era il fenomeno, sì, di martoriare un po' il secchione o di fregare le Timberland al ragazzino più gracile, ma lì era bullismo puro. Al vabbè, ma quello è una cosa, che nelle scuole ci sono sempre state, cioè nel modo di là di nerd o non nerd, insomma. Sì, infatti, poi spesso mi abbraccio per quello che ha detto Santa Cosia, che dice: io sono lo stereotipo, sono il nerd, proprio il concetto di nerd sceso tra di noi e fatto carne. Senza straccali, oh, però, senza... mi sta battutaccia. Sì, anche se all'epoca ero proprio nerd, quindi ero anche magro all'epoca. Però non avevi gli straccali. Sì, ma se lo so, mi ricordo. Gli straccali ce l'avevi? E non so cosa sono. Gli straccali, le bretelle. Ah, le bretelle, no, da noi non si usavano, almeno nella moda noi italiani eravamo un pochino meglio, anche pure il nerd c'era. Dice se la cavava il nerd, gli occhialoni sì, ce li avevo anche rotti spesso, sì, tutto proprio uguale. La cosa avevo le penne nel taschino della camicia sempre, e quando mi ricordo una cosa che mi diceva sempre anche mia moglie quando ci siamo conosciuti, io avevo un floppy da 3,5 pollici nel taschino della camicia sempre. Ma il salvataschino, come il nerd quello americano con la camicia bianca a manica corta? Io nel taschino della camicia c'erano i preservativi di solito, poi fate voi, perché insomma lui, non sapevo cosa fossero. È arrivato Don Juan De Marco, è arrivato. Se, ma allora Girasolo ci chiede, ma le secchioni non è nerd necessariamente. No, lo era all'epoca, la definizione era quella. Sì, sì, dai, poi alla fine in realtà poi noi stiamo parlando di un fenomeno sociale che chiaramente ha avuto origine, come dice Carlo, negli Stati Uniti, però in realtà poi alla fine il discorso terminologico è anche molto relativo, cioè nel senso, in realtà alla fine serviva come pretesto per sfogare dei comportamenti che alla fine già esistevano prima e dopo la parola nerd, quindi non è che alla fine è cambiato molto da quel punto di vista. Francesco, scusa, stavi dicendo, stai finendo oppure t'ho scavalcato? No, stavo dicendo, avete scavalcato, ma tanto sono abituato. No, non fa il Calimero. Volevo dire, cioè, questo, diciamo, questo lascito di emarginazione, cosa è una cosa tipica, perché spesso i nerd, diciamo, compaiono, tra virgolette, si evidenziano nel liceo, diciamo, nella preadolescenza, nel periodo, diciamo, da quando ci si affaccia alla vita adulta, quando si è alla ricerca di una certa identità, tra virgolette, spesso spiccano proprio e vengono, tra virgolette, emarginati proprio perché in quella ricerca spasmodica di identità, che è quella fase della vita, almeno nelle culture occidentali, poi in altre culture non c'è proprio il concetto quasi di adolescenza, la ricerca di qualcosa è comunque domina, diciamo, quello che è l'aderenza a quelli che sono dei modelli forti, diciamo, dei modelli forti. I modelli forti sono quelli più diffusi e condivisi, quindi spesso per cui il ragazzo, virgolette, conformista ha più magari successo, ha più attrattiva rispetto a quello lì che è un pochino più emarginato, che ha degli interessi più limitati, secondari. Oggi in realtà tutti giocano, per esempio, a Fortnite. Magari quello che non gioca a Fortnite è quello lì, tra virgolette, più magari che può essere più emarginato, cioè ha dei caratteri, perché comunque spicca in qualche modo. E un'altra cosa che voglio dire, spesso comunque il concetto di nerd è spesso comunque visto all'opposto di quello di popolarità. Quello che evidentemente in quel periodo è quello più popolare è sempre quello più figo, eccetera eccetera, ma semplicemente perché da un certo punto di vista essere popolari a volte è molto faticoso, in realtà, perché comunque devi essere sempre ben presente, devi sempre giocarti molto dal punto di vista sociale, devi sapere le conoscenze giuste, sapere di fare le stronzate al momento giusto, mentre spesso i nerd non sono neanche minimamente interessati a questo. Spesso un'altra cosa che coincide con l'essere nerd è comunque essere più interessati ad aspetti, tra virgolette, tecnici, logici, comunque rispetto e sono anche un pochino più impacciati dal punto di vista sociale, vuoi perché per disposizione, vuoi perché volendo passare più tempo, diciamo, con le loro passioni, magari si aggregano tra di loro, hanno quel linguaggio comune, quel modo di comunicare che li accomuna e si interfacciano poco con quello che è magari un ambiente esterno e magari più successivamente possono sviluppare. Quindi in realtà a volte un, tra virgolette, ritardo dal punto di vista delle abilità sociali lo si vede in queste persone, però comunque adesso pure con le nuove tecnologie, con quello che questo è l'aver proprio rivincito dei nerd, come ha detto prima Sant'Agostino quando ha parlato della storia, virgolette, dei nerd, quello che erano i nerd prima, allora gli anni 60, 70, 80, oggi praticamente dominano il mondo e hanno un pochino imposto, virgolette, il loro modo di vedere, come che è qualcosa che in realtà può portare al successo, come che è qualcosa che in realtà non c'è niente di male, anche perché adesso proprio con l'internet i cosiddetti nerd, diciamo, non sono molto, un altro motivo per cui adesso è forse molto più non c'è più questa accezione negativa, perché si creano delle comunità, hanno molto più accessibili, se prima erano isolati, delle persone erano più isolate, ora hanno più opportunità di trovarsi, di condividere queste passioni, di giocare insieme, di ritrovarsi, di scambiarsi, cioè di avere cioè, comunque anche dal punto di vista dell'impaccio sociale, tra virgolette, anche questo qui è uno stereotipo un pochino da abbandonare. Sì, vabbè, diciamo pure che negli anni 80 non c'era, diciamo, sì, gli strumenti che ci sono oggi per creare comunità, no? Nel senso, poi alla fine cioè, forse è quello che stavi dicendo, scusa ma mia moglie mi ha distratto. Sì, sì, è quello che stavo dicendo. Meglio, c'erano, scusa. Però per le cose che sono più diffuse, tipo il bar, la piazzetta, sì, sì, certo, il calcetto, cioè comunque erano ambienti più ampi, diciamo, più diffusi rispetto alla cameretta, oppure già la sala giochi è una cosa molto intermedia, lì ci andava sia il nerdone che anche il figo, diciamo, però era un po' borderline la situazione della sala giochi, perché poi alla fine comunque il nerd andava a giocare ai videogiochi ma rischiava di piacci schiaffi, cioè nel senso levate che gioco io, cioè, capito? Perché sì, comunque la sala giochi in alcuni ambiti era comunque un ambiente per ficaccioni, cioè, sì, sì, sì, per quello che doveva far vedere quanto era figo, che giocava al flipper, scansate, qua c'è gioco io sono più grande di te o via dicendo, sì, magari no? Ci si andava ad orari diversi per, ah, forse per sì, giocare, forse sì, sì, magari sì. Questa magari mentre il flipper cioè, è più diffuso, ne so, dopo scuola oppure in serata, magari il nerd ci andava in orari in modo da non incontrare questi, questo. Quindi comunque questo vissuto di emarginazione ora forse lo si vive, però per altri, diciamo, si viene emarginato per altre cose, non sicuramente perché si è bravi, che ne so, a programmare, a fare cazzate, oppure magari a montare video, a fare altro, a essere bravi ai videogiochi, assolutamente per altri. Quasi oggi si è più emarginati se leggi i libri, per esempio. Sì, sì, sì, adesso è diventato perché la gente non sa leggere. Questa è una cosa che in realtà è rimasta forse perpetua, il leggere libri è comunque visto sempre come qualcosa di alto e quindi da emarginare. Comunque in quella fase, diciamo, ma anche non necessariamente in quella fase, c'è questa tendenza a rimanere nella media, sia se sei troppo basso che sei troppo alto, vieni in qualche modo, cioè diventi una sorta di nemico, perché vieni visto quasi come un'anomalia che non si conforma a quelle che sono delle regole sociali più o meno stabili, più o meno imposte, diciamo. Poi un'altra cosa molto borderline, salto un pochino di palo in frasca, spesso, diciamo, quello che poteva essere un nerd, oppure è un nerd adesso, diciamo, tra virgolette, spesso ha delle caratteristiche, le caratteristiche che ho detto prima, cioè l'essere socialmente impacciato anche dal punto di vista emotivo, essere fissato con quello che è molto, con quelle che sono delle passioni che hanno molto a che fare con la logica, con la precisione, con qualcosa di molto settoriale. Spesso c'è questo cosa di borderline, perché spesso magari quelli che sono, erano dei nerd, sono magari affetti da quella che viene un pochino discussa in realtà come sindrome, la sindrome di Asperger, cioè questo, sì. ora dal punto di vista, ora esiste solo nel manuale dell'ICD-11, cioè quello dell'OMS, invece nel DSM-5 c'è il manuale statistico diagnostico di disturbi mentali, è stato eliminato, esisteva nel 4, esiste nel 5, ora è generalmente incluso nei disturbi dello spettro autistico, cioè. Ora non voglio parlare proprio di autismo eccetera eccetera, però comunque proprio i criteri diagnostici proprio vedono proprio questo, cioè un'intelligenza preservata dal punto di vista linguistico, molto preservati, anzi molto più avanti anche delle persone della media, con questi interessi molto molto stereotipati, anche dei rituali, spesso dell'aderenza volta a delle routine, a dei rituali, e comunque al fronte di comunque di deficit per quanto riguarda la comunicazione, anche il capire gli indizi sociali, anche la comunicazione verbale usata a scopo sociale, diciamo. Quindi spesso e volentieri magari persone che sono affette a questa sindrome, che in realtà sembra ben definita, non lo è affatto, come non lo è nessun quadro autistico, cioè il autismo è una parola che dici tutto e dici niente, questi autismi ad alto, anzi altissimo funzionamento, perché spesso sono indistinguibili dalle persone tra virgolette normali, tra molte virgolette normali, comunque rientra diciamo, ha proprio le caratteristiche proprio del nerd che abbiamo descritto adesso. Perché ma infatti scusa, magari posso così, certo, ti faccio, certo. Mi hai fatto venire in mente la serie su Netflix Atypical, che non so quanto possa essere aderente realmente, poi quanto possa essere accurata, però nella descrizione di altre, sicuramente nella descrizione del protagonista di Atypical, la differenza con il nerd raccontato magari in un film degli anni 80-90 alla fine non c'è, cioè fondamentalmente, se non il fatto che comunque la serie ti spiega in maniera accurata che lui comunque non è in grado di leggere le emozioni, le espressioni o i rapporti sociali sono complicati per lui se non usando determinate regole, però poi alla fine lui viene rappresentato come il mega nerd dei pinguini, cioè nel senso, mo te faccio l'esempio, è tra l'altro una serie molto carina, io devo dire la verità, cioè secondo me vale la pena comunque vederla. Poi dopo quanto possa essere, ribadisco, accurata, io questo non lo posso sapere, e magari ce lo dice più Francesco, magari è più più esperto. Io non l'ho visto, quindi dovrò vedere. Però la conosco perché già me ne hai parlato. Tanto mi sa che è abbastanza. Sono 2-3 stagioni del film. Sì, ma poi gli episodi sono corti. Cioè, è piacevole da vedere. Cioè, a meno che non ci sono delle incongruenze talmente fastidiose per un addetto ai lavori, no? Che magari dice: no, cioè, ragazzi, questa cosa non si può vedere. Io devo dire che la serie è bellina da vedere, anzi. Noi proprio c'eravamo molto appassionati con Michela, perché poi comunque la bravura dello sceneggiatore è quello comunque di umanizzare, di tenere un personaggio che può essere al di fuori della nostra forse comprensione, riuscire a tenerlo dentro senza magari denaturarlo più di tanto. Però ecco, cioè lui è un nerd poi fondamentalmente, non a caso lavora dentro un negozio elettronica poi alla fine, no? Se vai a vedere, cioè, nel senso, il suo lavoro è quello di fare il commesso e gli fanno fare i lavori magari più nerd, quindi ti fa lo schema, ti fa l'elenco, ti fa tutte le cose ultra precise che lui ovviamente è più portato, predisposto, anche se questo è sembrato un po' uno stereotipo e via dicendo. Ti ridò la parola, rispondo su... Vai, scusa. Sì. No, rispondo solo a una cosa di Girasole, sul fatto che lei dice: vabbè, ma in realtà negli anni 80 se non ti facevi gli amici sotto casa alla fine eri solo. Sì, però è vero pure negli anni 80, da quel punto di vista, che viveva magari in una grande città come me, era più facile averci il gruppetto del muretto, cioè nel senso comunque i ragazzi stavano per strada, cioè fondamentalmente, rispetto a come potevamo vedere la vita negli anni 2000, diciamo, quando per esempio noi abbiamo conosciuto Matteo, sti genitori che, per carità, che fai uscire tuo figlio di casa, cioè nel senso era un po' era proprio la mentalità e l'approccio diverso, non dico meglio o peggio perché ogni situazione c'ha i pro e i contro, no? Scusa Carlo. No, stavo solo annuendo quello che dicevo. Ok. Sì, era anche così per me. Anch'io vivevo comunque ai margini di Milano, in provincia, però sempre a Milano, e si viveva molto fuori, cioè i ragazzi erano lasciati, tra virgolette, liberi di circolare in una maniera completamente diversa rispetto a quella... Di pascolare. Vai, Francesco. Volevo dire anche io. sì, lui pascolava. Sto riflettendo proprio sul fatto che proprio anche in virtù del concetto di alternare a determinate fasi della vita determinate passioni, appunto, se l'adolescenza l'ho vissuta per campetti di calcio, per strada, con gli amici, eccetera, poi i 20 anni li ho trascorsi in fumetteria, per dire appunto la differenza. È che io questa è una cosa che non ci ho mai avuto, quella dei fumetti, proprio zero, proprio. Io sì, tantissimo. Ma io non li per me erano inintellegibili i fumetti. Cioè proprio... Chi è che qua era malato come me di fumettologia? Sicuramente Carmine, che adesso non c'è, sicuramente ne ha letti tantissimi. Beh, lui ha sostenuto l'industria. Quando mi sono reso conto che stavo spendendo 450.000 lire al mese in fumetti. Porca puttana. Esatto. Allora ho detto: forse è meglio che smetta. Vai, Francesco, finisci. Scusa che ti interrompiamo, però poi mi hai dato lo spunto. Mi è venuto in mente sta cosa. Insomma. No, ha fatto bene. Però badi, non vuol dire che nerd uguale uno che ha l'Asperger. No, neanche necessariamente il contrario. Uno che ha l'Asperger è nerd. Semplicemente. Cioè, nessuno, anche se vedi magari la persona che è molto impacciata, balbetta magari ed ha delle fissazioni, altro, nessuno, cioè, bisogna fare comunque un processo di diagnosi, altro, per vedere, cioè, può dare semplicemente che una persona molto impacciata, molto introversa, che è stato poco esposto, diciamo, a degli ambienti sociali, e quindi magari sono delle cose che evolverà, tra virgolette, cioè, dopo, diciamo, queste caratteristiche, queste abilità sociali, oppure semplicemente ce le ha ma le dimostra giustamente per i cazzi suoi, senza dover dimostrare niente a nessuno, perché spesso magari non sono neanche interessate a essere popolare, oppure a ricercare l'attenzione di chi che sia, oppure di avere chissà quali relazioni. Non vuol dire per forza che devono essere degli autistici, per forza. Perciò è molto, no, certo, molto labile come concetto, come molto borderline, diciamo così, volendo citare un altro quadro patologico. Sì, comunque il fatto di legare un pochino l'atteggiamento nerd a delle patologie è anche tipico, no, anche di alcuna della filmografia che ho citato prima, per esempio, vabbè, i Big Bang Theory, il buon Sheldon è sicuramente viene additato come uno non so, spero non me ne intendo abbastanza per dirlo, no, però, diciamo che nella serie non viene mai detto dichiaratamente, però diciamo che i richiami anche alla sua incapacità di leggere i segnali sociali, i comportamenti, esatto, in generale, diciamo che il richiamo c'è. Poi dopo, alla fine, quanto sia voluto, non voluto, e si sono tenuti, secondo me, in questo gioco del non è, però facciamo un paraculo, diciamo, esatto, bravo, non mi veniva proprio il termine tecnico. Paraculo, bravo, il concetto l'hanno esteso nella serie prequel in cui si parla della sua, vabbè, quella non l'ho proprio vista, infanzia, e lì capisci che certe, cioè, sono proprio dei comportamenti, e sono proprio dei lati della sua crescita che non ci sono mai stati, perché era tutto focalizzato a quella di tipo accademico, cioè lui era, essendo il bambino prodigio, era talmente più intelligente degli altri che non concentrava le sue esperienze su nulla che non fosse accademico, e appunto poi gli è rimasta questa sociopatia, questa totale mancanza di empatia, quantomeno, per cui l'incapacità di percepire gli stati d'animo altrui. Sì, anche diciamo che il suo egocentrismo, la serie prequel, io non l'ho proprio cagata, devo dire. Un'altra serie dove viene evidenziato in maniera decisamente più esplicita e più seria, se vuoi, Mr. Robot. Anche. Lì aspetta, Mr. Robot è molto molto molto più complessa, perché poi lì c'è proprio un problema, non la possiamo spoilerare, perché se diciamo chi è Elliot abbiamo rovinato tutta la serie, quindi ci siamo capiti. Ci siamo capiti, insomma. Ok. E comunque in Big Bang Theory e prima in IT Crowd, che è un po' l'ispiratore della serie, si vede anche che, oltre al nerd identificato anche tra virgolette come nerd sociopatico, quindi tra virgolette non con atteggiamenti poco sociali, ci sono anche gli altri nerd che invece sono tra virgolette normali, no? Quindi sì, il suo compagno di stanza, gli amici, si chiamano varie sottoclassi di nerd, per far capire che nerd non vuol dire per forza malato, e malato vuol dire nerd, insomma, questo era abbastanza esplicito da questo punto di vista, ecco, all'interno. E però più in generale io tenderei anche a parlare di cultura nerd in generale, come prima Kira Sole, che ha detto che posso essere nerd ma non mi piace l'informatica. Sì, sì, giusto? Abbiamo risposto. Sì, più o meno ha detto così. Perché infatti è quella che viene identificata oggi con la parola nerd, oltre al significato specifico che ha detto Simone, quindi quello che prima era magari il termine geek, è anche proprio l'identificativo di una cultura pop diversa da quella che era mainstream precedentemente. Quindi la cultura nerd del fumetto, della fantascienza, del fantasy, io non so se vi ricordate, ma io ho vissuto la mia giovinezza, infanzia, adolescenza, ma anche quando avevo 20 anni o fino ai 30 e passa, andare nelle librerie e non c'era il reparto fantascienza. Vero, vero, vero. Non c'era, vero, cioè, non esisteva. Cioè, vabbè, diciamo che la fantascienza in Italia ha sempre faticato, eh? Pure sì, essendo l'Italia un grosso produttore, soprattutto negli anni 60-50, anche dei film fantascienza, film, cose, così, coproduzioni. La cultura di serie B, ecco. Sì, sì, bravo, esatto. La cultura di serie, esatto, B. Diciamo che la fantascienza in senso generale è sempre stata considerata di serie B, solo che in un paese come l'America, dove comunque ogni fenomeno riesce a trovare il proprio spazio, la cosa è sicuramente stata amplificata, se no altrimenti probabilmente il discorso non sarebbe cambiato, perché pure in Inghilterra a metà, insomma, alla fine, fino a che non sono uscite determinate produzioni, comunque alla fine veniva considerata di serie B la fantascienza in generale. E questo poi per noi è stato sempre un problema, perché quando cercavi determinate cose o quando speravi che determinate cose venissero tradotte, non le trovavi, cioè nel senso era complicato. E questo come nei cartoni animati, nei fumetti, nel videogioco, che ribadisco ancora adesso in Italia sicuramente, magari anche in altre parti del mondo, ma il videogioco viene considerato ancora una cultura di serie B. Sì, diciamo in generale per una fascia oramai il problema è che l'Italia è un paese che complessivamente è anziano di media, ok? Altrimenti chiaramente anche lì le cose sono cambiate. Io mi ricordo, intervistavo una volta Pierpaolo Greco molti anni fa, e lui diceva: io quando dicevo ai miei suoceri che lavoravo cioè facevo il giornalista, cioè facevo, il mio lavoro era legato ai videogiochi, mi dicevano: ma quando è che ti trovi in lavoro? Cioè, però io comunque, esatto, con quel lavoro ci lavoravo, ci guadagnavo, anzi ci guadagnava, perché comunque multiplayer.it alla fine, ragazzi, per quanto noi possiamo considerarla una testata più o meno attendibile, marchettara, quello che vogliamo, è comunque un'azienda solida che oramai da quasi 15 anni, forse di più, alla fine, anzi, ha aperto pure il settore editoria, insomma, ragazzi, però dice: vatti a trovare un lavoro serio. Vabbè che in Italia noi facevamo fatica anche durante il lockdown a concepire lo smart working come lavoro, no? Sentiamo, esatto, che ne so, abbiamo una classe dirigente totalmente sferiata, esatto, impreparata, esatto, per il futuro che ci attende. Vabbè, c'era lo stesso governatore della regione Lombardia, no? Che diceva: cioè, vabbè, però adesso torniamo al lavoro, cioè, sì, perché non stanno al lavoro uguale. Sono d'accordo con la fascia. Sono d'accordo con la fascia di età, ma mi preoccupa anche le fasce di età più giovani, a me comunque. Che sono la conseguenza. Sì, perché se guardi anche comunque a una certa tipologia di giovani che ci sono adesso, che si esprimono e che vedi, non è che vedi una grande apertura culturale da quel punto di vista, almeno in alcuni casi vedi ancora una retratezza, verso anche il concetto, e questo è quello che forse mi preoccupa di più, ma forse qui entriamo in un altro argomento un po' più spinoso, verso proprio il concetto di cultura di per se stesso. Quindi non cultura di serie A o di serie B, sì, solo cultura. Qui è un'altra trasmissione questa, cioè, nel senso, non è l'unico forum, perché si scoperchia un vaso di Pandora agghiacciante. No, io accetto l'invito anche di Francesco, magari di farla comunque una trasmissione. Sì, però un altro format, resuscitiamo morti di bestie. Ma guarda, lasciamo perdere. No, in realtà sarebbe da fare anche un discorso serio, perché qui è un problema culturale globale, non è un problema culturale di identità, sì, capito? Cioè, e questo è un po' la cosa più pericolosa in una fase come questa, dove ovviamente poi c'è pure una crisi di mezzo, no? E stavo risentendo un podcast, perché sapete, no, che noi, vabbè, lo sapete perché ci state ascoltando nella web radio www.rantemradio.it, lo dico per chi ci ascolta in podcast, da lunedì parte il palinsesto fisso, quindi ragazzi è una cosa seria, e comunque mi stavo ascoltando nelle varie rotazioni, stavo facendo È pieno di stelle, che è il podcast che Alex aveva iniziato a fare, che hanno fatto solo la puntata pilota, sul cinema, con dei ragazzi che organizzano un festival cinematografico, e stavano parlando è una puntata vecchia, però stavano parlando della profonda crisi dei valori e culturale che c'è negli Stati Uniti adesso, che è, se noi ne abbiamo parlato anche in OGM, è comunque rabbrividiamo, insomma, di fronte a quello che sta succedendo oggi nel mondo, Scusate, ho dovuto tossire, quindi ho chiuso il microfono. Ok, facciamo ognuno cappelli il finale a modo proprio, perché poi alla fine siamo, insomma, quasi all'ora e mezza. Walter, tu che poi hai iniziato bene, poi ti sei messo in panchina, diciamo così. No, vabbè, perché insomma non è che ci avessi poi chissà quale altre, a parte un paio di esperienze che ho riportato di vita vissuta, insomma, non è che c'era molto da aggiungere. Il cappello finale quale può essere? Che, ripeto, da una parte sono contento che si sia sdoganato il concetto in un'accezione un pochino più positiva, perché insomma non era neanche giusto stereotipare in una maniera frustrante un sottobosco, un universo di persone non neanche troppo limitato, perché poi non è che stiamo parlando di così poche persone, e quindi sentirsi parte di una nicchia sociale stereotipata così negativamente, per chi ne faceva parte era veramente doloroso, spesso e volentieri poi creava anche delle insicurezze, nel senso che se pur non ti immedesimavi in maniera naturale nello stereotipo, poi ti ci ritrovavi immerso tuo malgrado e finivi per sposarlo più del dovuto, con tutte le insicurezze del caso e con tutte poi quelle esperienze che magari nella vita hai fatto un po' più tardi, perché in certi anni sei stato bloccato dallo stereotipo stesso, ecco. Quindi bene se oggi chi ha certe passioni le riesce a vivere appieno senza essere additato e senza dover rinunciare a nient'altro e senza dover essere emarginato soprattutto. Questo mi fa molto piacere. Sai che però non voglio finire per fare il demagogico, un po' il retorico, no? Però cioè, è vero, no, quello che hai detto te, è vero quello che ha detto Carlo, quello che abbiamo detto durante questo episodio, che comunque in qualche maniera quando si sdogana una cultura in qualche maniera ne giovano un po' tutti quelli che ne fanno parte, no? Però poi alla fine il problema resta sempre, perché oggi il nerd è il cinese, oggi il nerd è il negro, oggi il nerd è l'handicappato, cioè comunque... Scusa. Prego. Nel senso stai equiparando nerd a emarginato in questo senso? Diciamo. Esatto, cioè nel senso comunque tutte quelle persone che hanno comunque subito un certo tipo di comportamento, no, nel passato, no? E che oggi noi siamo contenti il fatto che comunque quella persona, quell'identità, non essendo più inserita in un determinato contesto, non subisce, diciamo, il bullismo, non subisce un certo tipo di aggressione o di violenza, roba del genere, perché oggi quel tipo di bullismo, di aggressione, di violenza la subisce qualcun altro, ma non perché c'è stato un miglioramento culturale. Questo che è un po' quello che diceva pure Carlo prima, no, suppongo, giusto? Sì, esattamente. Okay. E c'è anche da dire che adesso, quando diciamo nerd, cioè, la mia conclusione era proprio che questa puntata serve anche per capire il cambiamento dell'accezione della parola, quindi è logico che adesso con nerd non identifichiamo più tutto quello che hai detto e anche tutto quel senso di emarginazione con la parola, col significato. Esatto. Ma non è detto che questo invece esista, anzi sicuramente questo esiste ancora. Io però sono una persona ottimista come al solito, molto positiva eccetera. E quindi credo che adesso sia meglio di prima, cioè il mondo attuale sia sicuramente migliore rispetto a quello di 20 anni fa, di 30 fa. Non che non esistano cose negative che mi preoccupino, perché l'ho detto anche prima, la mia preoccupazione attuale sulla il rifiuto della cultura in generale che emerge adesso è abbastanza preoccupante, però sicuramente se faccio la media, se vedo il mondo in generale, lo trovo migliore rispetto a quello di 20 anni fa o 30 anni fa. Beh, migliore forse nelle possibilità, Francesco, perché poi tu dici no, perché tu paragoni il nerd all'emarginato, no? In realtà volevo fare un discorso, però non so se sono riuscito a rendere il concetto, insomma. Sì, ho capito, non stavi paragonando, stavi solo usando dal punto di vista semantico, diciamo, dal punto di vista linguistico, una parte per trasporlo su altre parti. Cioè, quello che volevi dire alla fine, ribadisco semplicemente il concetto di emarginato, di persona, di capro espiatorio, persona da rompere il cazzo, e quella resterà sempre, perché così non c'è stato un miglioramento per cui ok, il nerd ora è stato risanato, diciamo, è stato rivalutato. Semplicemente ok, il nerd è stato risanato, spostiamo le nostre energie vessatore verso altre persone, altre categorie, verso altre. Questo ci sarà senso, semplicemente è stato spostato, diciamo, questa attenzione, diciamo. Questo volevi dire? Sì, no, era proprio questo il concetto, che comunque vuoi dire il problema di sé, no, che tu lo chiami X o lo chiami Y o gli dai un'identificazione piuttosto che un'altra, il problema secondo me rimane, cioè e viene solo spostato, no? Questo è un po' quello che ho detto io, appunto, proprio riguardo a questo, è che secondo me adesso comunque è meglio di prima, riguardo proprio questo specifico problema. Sì, sì, sì. Ce n'è meno, ce n'è di meno. No, diciamo che forse oggi è più facile, comunque, secondo me prima quando tu subivi, se parliamo di bullismo, una volta mi piacerebbe parlare di questa cosa, però in generale, sì, quando tu subivi la cosa, andavi a casa, magari ti sfogavi con mamma o con papà o con chi era, E però poi alla fine la cosa finiva lì, perché sì, nessuno la prendeva mai sul serio questa cosa. Oggi invece il fenomeno è più viscerale, no? Più esposto da un certo punto di vista, quindi ci sono più strumenti anche per difendersi, se proprio uno la vuole andare a guardare, no? Comunque quantomeno il problema è esposto, e quindi da questo punto di vista ci vedo un miglioramento. Il problema è che comunque culturalmente non c'è stato un miglioramento che eliminasse il problema, non, o quantomeno che lo riducesse. Anzi, secondo me la cosa, col fatto dei social, dei video su YouTube, del TikTok e via dicendo, no, secondo me no, è l'esatto opposto. È come il discorso di altre cose negative, come la criminalità, eccetera, che dice, ma una volta c'era di meno. No, una volta era meno esposta. Sì, no, ma non dico che ma infatti non parlo di quantità, io parlo del fatto che comunque alla fine oggi c'è un incentivo in più, quello di far vedere guarda quanto so figo, cioè nel senso sorprende a calci l'handicappato, cioè. È esattamente il contrario, cioè quello che tu dici un incentivo, per me invece è proprio un modo per far uscire la cosa più alla svelta e quindi eliminarla prima. E questo in senso, senso generale sono d'accordo con te. Poi però dall'altra parte il ragazzo che prende a calci l'handicappato mentre che lo riprende su TikTok, c'è. Certo, non puoi dire che non c'è. C'è. Secondo me è in diminuzione. Ah, speriamo. Di meno, speriamo. Più consapevole. No, io questo sono contento che la vedi così, perché penso che tu hai un'osservazione forse anche più analitica di quella che ho io, e quindi alla fine accolgo il tuo ottimismo. Spero che sia così. Cioè, nel senso. Comunque, vabbè, dai. Ragazzi, poi veramente forse questo tema lo svilupperemo in altre situazioni. La cosa che voleva fare questo episodio, secondo me, per l'intenzione di Carlo, era quello di raccontare, diciamo, un termine per quello che ha significato anche socialmente per molti di noi, molti della nostra generazione e probabilmente anche delle generazioni precedenti, e quanto poi questa cosa si è andata trasformando in senso positivo, anche facendo nascere poi dei termini nuovi, diciamo, delle accezioni nuove, e oggi comunque essere esperti di un qualche cosa è comunque più una cosa positiva che piuttosto che l'essere quello, stai a pensare al computer e non alla figa, per capirsi, insomma, che poi, esatto. Perché poi alla fine, insomma, dai, il discorso. Ci sono pure i nerd della figa, dai. Ci sono anche i nerd della figa, sì. O le nerd del cazzo. Vabbè. Non discriminiamo. E infatti, no, hai ragione. Hai ragione. Noi poi facciamo sempre, perché questo è un problema linguistico più che culturale, cioè mio perlomeno. Poi va bene, Francesco, volevi chiudere in qualche modo? In particolare no, credo di aver detto, sicuramente non avrei detto, non si è detto tutto quello che si potrebbe dire, però nei limiti di una puntata, di un podcast, di una trasmissione, per stare nei tempi, credo che abbiamo. Sì, potrebbe essere uno. Abbiamo anche cercato di spaziare, cioè si sono anche state delle sferzate verso altrove, come hai detto tu, approfondibili, esatto, in altri contesti, in altre situazioni. Quindi sono contento. Degli spunti per nuove serate insieme agli amici di Runtime qui su www.runtimeradio.it, con questa chat che probabilmente. Una chiosa finale, me la consenti? Ma come no? Ti stavo per passare la parola. Parlando di nerd, e se non sbaglio questa citazione è proprio dalla Rivincita dei Nerd, alla fine i nerd c'hanno una minchia tanta. Ecco, a posto. Va bene, io me lo auguro, cioè nel senso non entro insomma nel merito. Io ringrazio tutte le persone che sono state qui in chat con noi e tutti coloro che scaricheranno ovviamente questa puntata. Vi invito comunque a commentare, a farci sapere, anche a suggerire temi o comunque magari a scrivere cose che possono essere elementi anche all'interno di questa discussione per eventuali approfondimenti. Ringrazio Angela Girasole, l'altissimo chiaramente, che e la prossima volta Roberto Tomaiolo ce lo portiamo in puntata, che forse è meglio, cioè nel senso piuttosto che avercelo in chat. Quando fermo con quelle dita. Esatto, state fermo con quelle mani piene dei diti. Piene dei diti. E ringraziamo quindi Rizzard e tutti quelli che ci sono stati. Io ringrazio chiaramente Carlo Sant'Agostino per l'idea, che è abbastanza stata gagliarda. ringrazio Francesco per esserci stato, perché ci tenevo, perché sapevo che mi avrebbe dato degli spunti, e poi finalmente, lavoreremo finalmente, sì. No vabbè, okay. Sì, sì, doveva esserci anche alla puntata di Cyberpunk, ma con tre ore di Cyberpunk, giocate, dici, esatto, poco. Esatto. Io non tocco Cyberpunk da Natale, vi dico tutto. E vabbè, c'hai altri questioni adesso, altri cazzi. Esatto, altri cazzi, stava di proprio quello. E ringrazio ovviamente Walter, perché comunque ci teneva a essere qua, perché è una cosa che comunque ha fatto parte della sua vita, e quindi alla fine insomma anche lui aveva i suoi begli elementi, e anche alcune cose dette da Walter potrebbero essere sviluppate in ulteriori puntate, quindi poi ho detto mi piace questa puntata, sono veramente contento, quindi grazie Walter. Ma di niente. Vi ricordo che la prossima settimana, venerdì prossimo alle ore 21, Ludico Forum si occuperà di Indiana Jones, e tra l'altro avremo un ospite importante, che io lo chiamo ospite ma in realtà è un amico, è uno che vorrei che tornasse a fare radio con noi, perché no, secondo me è stato uno degli istrioni più forti e potenti della storia del podcast in Italia, e che forse in questo momento magari sta passando un periodo un po' complicato e che va trascinato all'interno del Runtime Radio con tutta la forza e l'energia che lui ci ha sempre avuto nel fare le trasmissioni. Quindi venerdì prossimo lo portiamo, voi scoprirete chi è, ma insomma quando lo sentirete lo capite, perché chi ha ascoltato i podcast ha ascoltato la sua voce una volta sicuramente. Bene, detto questo, io ringrazio tutti e ci vediamo la prossima occasione, che sarà appunto venerdì prossimo, domani sera 23:30, con Runtime by Night, che Carlo, quando vuoi puoi tornare, cioè, nel senso anche tu. Ma sì, sai che ne abbiamo da fare, eh? Ricordati. Abbiamo un sacco di archeologia informatica, quelle di YouTube. Quanti cazzi dici, lo so, hai ragione. Vabbè, però noi divertiamoci anche un pochino, perché sennò va buono. Ragazzi, grazie a tutti. Ciao. E alla prossima. Runtime Radio, la radio non solo geek, vi dà il benvenuto. We'll be right back.